2024 di Enrico Pagliarini. Puntata dell'11 e 12 luglio 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. Sicuramente la notizia più importante della settimana è l'annuncio fatto da Google, che dal prossimo anno rilascerà un sistema operativo open source sviluppato a partire da Linux, che inizialmente verrà installato sui netbooks, i piccoli PC portatili a basso costo che tanto successo stanno avendo negli ultimi anni. L'obiettivo degli ingegneri di Mountain View, dove ha sede Google in California, è quello di costruire, dicono loro, un sistema operativo in grado di caricarsi e collegarsi ad internet in pochi secondi. E questo è sicuramente il sogno di molti. Quindi un sistema operativo che si carica così come, come si accende il telefonino, che in pochi secondi è pronto. Beh, devo dire che alcuni nuovi telefonini non sono così veloci e questo è un altro problema che stanno affrontando i tecnici. Questo programma si chiamerà, questo software, questo sistema operativo si chiamerà Chrome OS, e OS sta per sistema operativo in inglese. Chrome è già il nome del browser di Google e dovrebbe essere disponibile nella seconda metà del prossimo anno. Google ha confermato che sarà gratuito e questo potrebbe essere un vantaggio decisivo per la sua affermazione. Naturalmente è la Microsoft ad essere sotto attacco, perché oggi Windows è installato su quasi il 90% dei PC venduti nel mondo e i produttori di computer pagano una quota a Microsoft, normalmente alcune decine di dollari, c'è chi parla di 20-40 dollari, anche se nella quasi totalità dei casi si tratta di accordi segreti e molto diversi da produttore a produttore. Proprio perché il successo di un sistema operativo è un mix molto complesso tra accordi con i produttori e disponibilità anche di applicazioni, cioè i programmi che girano su quel sistema operativo, le cose non sono facili. Per Google potrebbero volerci anni prima di affermare il nuovo Chrome OS. Certo è che i produttori di PC potrebbero essere interessati ad un prodotto che promette, così dicono i tecnici, di essere veloce, snello e soprattutto gratuito. Su questo c'è conferma. C'è infatti chi vede in questo la possibilità di ulteriori ribassi nei prezzi dei PC, un'industria ormai schiacciata dalla concorrenza che ormai ha margini ridotti a pochi punti percentuali. Un analista della Kaufman Bros ha fatto un'osservazione molto intelligente, notando che mentre i prezzi di quasi tutte le componenti dei PC stanno crollando, l'unico elemento che non ha subito il ribasso dei prezzi è proprio il sistema operativo. E certo, perché Microsoft, avendo una posizione così dominante, oltre il 90, quasi il 90% del mercato, certo non è invogliata ad abbassare il prezzo dei sistemi operativi. Google ha pubblicato su internet una lista di aziende interessate a Chrome OS per i loro netbooks. Si tratta di Acer, che ha quasi la metà di questo mercato, Asus, che questo mercato se l'ha inventata ma si è fatta prendere quote di mercato appunto da Acer, poi anche HP, Lenovo e Toshiba. Dicono da Google: il nostro tentativo è ripensare integralmente il concetto stesso di sistema operativo. Abbiamo ripensato completamente l'architettura della sicurezza per evitare agli utilizzatori i virus e i problemi relativi alla security. Oggi l'unico concorrente di Windows è, potremmo dire, il Mac OS, cioè il sistema operativo della Apple, che però ha una quota di mercato che non supera il 10% in tutto il mondo. Linux ha una piccola fetta del mercato, stiamo naturalmente parlando di prodotti cosiddetti consumer, cioè i computer destinati alle famiglie, ai consumatori finali. Le cose per il mercato aziendale sono molto diverse. In questo caso Linux ha quote di mercato sicuramente più elevate, più interessanti. C'è un altro dato di interesse, che Google va in questo modo, con questo annuncio, all'attacco di un mercato dove questa azienda non è presente, cioè quello del software installato sui PC, mentre finora ha avuto successo e ha sperimentato molto nel mondo della rete, delle applicazioni erogate via web. Quindi questa è una novità molto interessante, non solo per Google ma per tutto il mercato. Quello di cui stiamo parlando è un mercato dove finora è stata vincente, almeno in termini di quote di mercato, ma non solo, la Microsoft, che come dicevamo ancora oggi è quasi monopolista, anche se va detto che, l'abbiamo detto altre volte, Microsoft dovrebbe cominciare a preoccuparsi perché la strategia web non funziona e nel mondo dei sistemi operativi c'è stato il fallimento di Vista. Vedremo cosa succederà con l'arrivo del nuovo Windows 7 atteso per l'autunno, dovrebbe arrivare sul mercato a partire da ottobre. Microsoft comunque dovrebbe rispondere alla strategia annunciata da Google e, secondo alcuni siti specializzati, l'azienda creata da Bill Gates potrebbe annunciare novità importanti per Office all'inizio della prossima settimana. Secondo le indiscrezioni che girano su internet, verrà annunciata la disponibilità di una versione Office online, accessibile da qualsiasi computer collegato ad internet, con funzioni simili a Google Docs, cioè la suite da ufficio online e gratuita di Google. Vedremo cosa succederà, sicuramente qualche cosa sta per cambiare, anche se ad oggi le posizioni sono Google leader nel mercato online, in difficoltà in questo mercato, in questo settore, Microsoft, mentre nel più classico e tradizionale software installato sui computer, quindi non solo il sistema operativo Windows ma anche la suite da ufficio Office, ecco, in questo caso rimane vincente Microsoft, ma per il futuro le cose potrebbero cambiare. Parliamo di una iniziativa che si svolge oggi a Orvieto, riguarda il mondo della sicurezza, un settore che diventa sempre più importante e potremmo dire strategico anche nelle scelte dei paesi che investono contro il cybercrime e il cyberterrorismo. Cosa c'è a Orvieto? Il primo hacking game cittadino intitolato, badate bene, Crack al tesoro, quindi non è una caccia al tesoro tradizionale, ma una caccia al tesoro dove bisogna craccare, quindi violare, come fanno gli hacker, come fanno gli smanettoni, alcune cose per trovare i cosiddetti indizi. Uno degli organizzatori, e da lui ci siamo fatti raccontare che cos'è la cracca al tesoro, è Raul Chiesa, uno dei massimi esperti nel mondo della security, consulente delle Nazioni Unite sul cybercrime. Abbiamo pensato di unire un po' due cose che in genere non c'entrano, cioè da una parte gli smanettoni e la tecnologia e dall'altra la storia, il centro storico, una bellissima città come Orvieto, per cui è una caccia al tesoro sì, con la differenza che ci sono da trovare dei indizi, ma facendo hacking, cioè violando in maniera assolutamente legale e autorizzata una serie di access point su wireless e dei computer alle spalle per trovare i singoli indizi. Beh, quindi potremmo dire sicuramente una iniziativa per esperti e per smanettoni, comunque in bocca al lupo, vinca il migliore. È importante che ci siano iniziative di questo genere anche per far capire l'importanza che oggi in questo mondo tecnologicamente interconnesso ha il tema della sicurezza informatica e della lotta al cybercrime, al cyberterrorismo, che a volte non ha come obiettivi solamente i grandi paesi o le grandi organizzazioni, ma anche le piccole aziende, quando soprattutto queste aziende hanno proprietà intellettuale da poter rubare. Adesso parliamo dello sviluppo e della diffusione della banda larga, un tema di cui ci occuperemo anche nella seconda parte di 2024, e soprattutto vogliamo parlare di quanto è importante, lo abbiamo detto tante volte, per il sistema paese la diffusione del broadband, della banda larga. Di questo ha parlato in settimana anche Corrado Calabro, che è il presidente dell'Autorità per le Comunicazioni, nella sua relazione annuale al Parlamento. Il servizio voce, tanto sviluppato in Italia, siamo al record mondiale, ha iniziato la fase di regresso. È invece in progressivo e incessante aumento il servizio dati, il quale però, per sostenersi e svilupparsi, richiede investimenti già nelle reti attuali e molto di più nella rete di nuova generazione, necessaria per l'alta velocità trasmissiva. E invece gli investimenti diminuiscono. Che la situazione sia urgente e drammatica è evidenziato da questa considerazione. Se in Europa il settore delle telecomunicazioni ha retto nel suo complesso anche in un anno critico come il 2008, lo si deve agli introiti registrati nei nuovi servizi a banda larga, stimati più di 300 miliardi. Potenziamento della rete in rame, mediante tecnologia DSL, tecnologie wireless e satellitare, larga banda, telefonia mobile, sono tutte iniziative concorrenti, meritorie e assecondabili per l'alta velocità trasmissiva, ma con esiti, funzioni e prospettive temporali limitati e condizionati. Allo stato attuale delle conoscenze c'è una sola tecnologia che ci consenta a un tempo di sovvenire adeguatamente alle esigenze attuali delle zone ad alta densità di traffico e di assecondare le richieste in crescita negli anni a venire con un intervento valido per i prossimi 50 anni ed è la fibra ottica, anzi la FTTH, Fiber to the Home. Ma è attuabile un intervento così costoso in tempi di crisi qual è quello che viviamo? Ebbene, proprio in questo periodo di crisi la Commissione europea e gran parte dei paesi del G8 ritengono prioritari gli investimenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, perché sono quelli che producono i maggiori effetti sulla crescita del prodotto interno lordo dei paesi avanzati. Già l'anno scorso vi ho intrattenuto su questo, in nota potete trovare dei richiami puntuali. Questi investimenti garantiscono esternalità positive, i cosiddetti spillover, che si irradiano su tutto il sistema economico e produttivo, accrescendo la produttività del lavoro, l'occupazione e il prodotto interno, riducendo i costi delle transazioni di mercato e rendendo possibile l'introduzione di innovazioni di prodotto e di processo con applicazioni che oggi vanno dalla sanità al risparmio energetico. Investire nell'alta banda è dunque una necessità, anche più che mai nella fase di crisi che attraversiamo. La crisi può agire come una sferzata. Non ci dice niente che la Cina, il Giappone, l'Australia, il Regno Unito, la Germania e l'Olanda siano proiettati in tale direzione? E che il Presidente Obama, che pur deve fronteggiare una crisi finanziaria e economica sconvolgente, abbia posto l'alta velocità trasmissiva tra i punti qualificanti del suo programma di governo? Apprezziamo senza riserve il piano recentemente annunciato dal Vice Ministro Romani per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro, volta a estendere entro il 2012 la copertura a larga banda all'intero Paese. Superare il digital divide è certo doveroso ed è anche economicamente proficuo, ma ciò non deve distogliere dall'altro passo che contemporaneamente deve compiere il sistema, quello verso l'ultrabanda, ossia le fibre ottiche, che presentano un incomparabile valore prospettico. I due tipi di interventi, lungi dall'essere sostitutivi, sono complementari. Sarebbe come rinunciare a costruire le autostrade finché ogni paesino di montagna non abbia una strada asfaltata di collegamento. Non ci si può appagare della locomotiva a vapore quando c'è già l'alta velocità ferroviaria e ci sono gli aerei. Giustamente Francesco Caio nel suo rapporto avverte che potrebbe verificarsi il rischio di accorgersi troppo tardi che l'infrastruttura non è sufficiente a fronteggiare la domanda. E questo è un pezzo, un breve estratto della relazione annuale al Parlamento del Presidente dell'Autorità per le Comunicazioni, Corrado Calabrò. Ha citato Calabrò Francesco Caio, che ha realizzato un rapporto che indica alcune vie per lo sviluppo della banda larga nel nostro Paese. Molti dei nostri ascoltatori ricorderanno che Caio ne ha parlato proprio qui ai nostri microfoni qualche settimana fa. Se avete curiosità e voglia di andare a riascoltare quell'intervista, beh, andate sul nostro sito internet e trovate la registrazione www.radio24.it. Siete all'ascolto di 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Vi ricordo il nostro sito internet www.radio24.it, lì trovate tutte le informazioni e anche i link per scaricare il file MP3 della nostra trasmissione. Ma come vi ricordo ogni settimana, la cosa più semplice e forse anche quella più divertente è iscrivervi, tra l'altro la cosa è gratuita, assolutamente gratuita, al nostro servizio podcast. Potete utilizzare un software come iTunes, trovate il link da inserire all'interno di iTunes sul nostro sito internet e comunque se volete possiamo anche inviarvi le informazioni via email. E una volta fatta questa operazione, una volta sola, tutte le settimane si aggiorna automaticamente il file, quindi si scarica automaticamente il file della nostra trasmissione. Quindi in questo modo potete farvi anche una una piccola biblioteca, audioteca di 2024, come del resto fanno molti ascoltatori. Ci sono alcuni che realizzano i CD, poi li ascoltano in autoradio, ci sono alcuni che scaricano direttamente sul proprio smartphone, chi usa il BlackBerry, chi usa l'iPhone o chi usa altri sistemi. Insomma, ci sono tanti ascoltatori che ci hanno scritto, anzi ne approfitto, scriveteci e indicateci il modo con cui riascoltate 2024. Abbiamo parlato dell'importanza della diffusione della banda larga, ne parleremo anche più tardi nella seconda parte. Corrado Calabrò ha tenuto, che è il presidente dell'autorità per le comunicazioni, ha tenuto la sua relazione annuale al Parlamento e ha auspicato la nascita di una società formata da un nucleo di partner industriali per portare avanti il progetto di diffusione della banda larga, di una nuova rete in fibra ottica per la larghissima banda in Italia. Vedremo quale sarà poi lo sviluppo di questo dibattito. Una cosa importante in conclusione di questo breve estratto che abbiamo raccolto da Calabrò, una cosa è importante sottolinearla per il futuro anche dell'Italia e dei servizi a banda larga. Le infrastrutture a larga e larghissima banda rappresenteranno la spina dorsale dell'avvenire dei paesi avanzati. L'evoluzione verso le nuove reti è ineludibile perché connaturata al DNA del settore. Basta guardare la velocità con cui si è espanso, una crescita del 50% annuo non ravvisabile in nessun altro settore. E quindi sicuramente è necessario far presto e velocizzare non solo gli investimenti, ma anche il format con cui verrà distribuito il segnale in banda larga in Italia e soprattutto il format con cui verrà fatta questa rete di nuova generazione. Più tardi ne parleremo anche con Stefano Pileri, che è responsabile delle tecnologie di Telecom Italia e da poche settimane presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Adesso parliamo di un altro tema. Sapete, molti di voi sapranno che i giornalisti hanno rinviato a settembre un eventuale nuovo sciopero, non è detto che si faccia, contro il disegno di legge sulle intercettazioni, dopo che il governo ha deciso in settimana di rinviare a dopo l'estate la discussione sul provvedimento. Obiettivo delle critiche, i divieti e le sanzioni che verrebbero introdotti sull'informazione relativa ad indagini e inchieste giudiziarie. A questa protesta si era unito un gruppo piuttosto numeroso di blogger e di persone che comunicano in rete e ritengono che internet debba rimanere uno spazio di dibattito libero. Questa protesta è confermata, quindi non è stata annullata, si svolgerà anche con una iniziativa pubblica in una piazza di Roma il prossimo martedì. Ne abbiamo parlato, ne parliamo con Guido Scorza, avvocato, esperto della rete, presidente dell'Istituto per le politiche dell'innovazione. Bentornato a 2024. Buongiorno, grazie mille. La prossima settimana voi avete indetto questo non solo dibattito, ma anche una vera e propria protesta, non solo in rete, ma che avrà anche un momento pubblico a Roma. Beh, partiamo dai motivi dell'iniziativa e di questa protesta. Nel DDL intercettazioni, o Alfano come ormai è stato ribattezzato, al di là delle tante disposizioni oggetto di contestazione in questi giorni, ve n'è una attraverso la quale si vorrebbe estendere anche a tutti i siti informatici, così vengono definiti nel disegno di legge, l'obbligo di rettifica previsto nella vecchia legge sulla stampa, la 47 del 1948. L'applicazione di questa norma avrebbe come effetto che ogni qualvolta un blogger o il gestore di un sito informatico riceva una richiesta di rettifica, questi sarebbe tenuto entro 48 ore a procedere alla rettifica stessa. Se non vi provvedesse sarebbe passibile di una sanzione fino a 25 milioni di vecchie lire. Si tratta evidentemente di una infrastruttura burocratica che l'informazione amatoriale, quella che è caratteristica della rete, non può sostenere. Dire a un blogger o rettifichi o paghi 25 milioni di vecchie lire, o rettifichi di corsa o paghi 25 milioni di vecchie lire, significa disincentivarlo, dissuaderlo a fare quello che ha scelto di fare, non per mestiere ma per passione. Quindi voi dite chi fa informazione o comunque chi anima il dibattito che cresce in rete non deve rispondere alle regole che disciplinano questo settore, la stampa? Diciamo che in linea di principio è qualcosa che nel nostro ordinamento è ben scritto da sempre. Una cosa è fare informazione a livello professionistico, non è un caso che esista un ordine dei giornalisti e che esistano dei giornali, così come che esista una legge che si definisce proprio legge sulla stampa, e una cosa invece chi vuole semplicemente esprimere liberamente il proprio pensiero attraverso qualsiasi strumento, ma non per lavoro. Ecco, questo è chiaro a livello di principio, ma è un po' meno chiaro poi a livello di singole disposizioni di legge. Nel DDL Alfano esiste una disposizione in particolare, quella di cui stiamo discutendo, che in realtà sembra proprio porre sullo stesso piano chiunque utilizzi la rete per diffondere o condividere informazioni, e questo non va bene perché evidentemente esiste un abisso in termini organizzativi, economici e strutturali tra una testata online e un blog o un sito internet di informazione amatoriale sugli amici o i fan delle due ruote piuttosto che delle tre ruote. Come fare per discriminare, per distinguere chi fa informazione e anima un dibattito a livello personale, magari nel tempo libero, chi invece fa informazione professionale? Può sembrare chiara la distinzione, perché chi fa di mestiere il giornalista sicuramente ricade nella seconda casistica, e chi invece fa altro di mestiere non è un professionista. Però a volte ci sono blog che oggettivamente possono assomigliare molto a siti di informazione professionale. Allora, come discriminare l'uno e l'altro? Ma la questione è aperta, e soprattutto la questione è resa incredibilmente confusa dalla stratificazione di diverse leggi che in maniera poco chiara hanno preteso di tracciare questa linea di confine. Con una battuta si potrebbe sostanzialmente dire che la distinzione sta nel fatto che qualcuno sceglie di fare informazione per mestiere e dunque per guadagnare qualcosa, e qualcun altro sceglie invece di fare informazione per passione, rinunciando in partenza a qualsiasi finalità lucrativa. Ecco, questi secondi sono quelli che generalmente vengono ricondotti alla cosiddetta blogosfera, e in relazione a questi signori appare oggettivamente esagerato pensare di ritenere applicabile in toto la disciplina sulla stampa, che nasce evidentemente per le imprese editoriali. Che cosa farete martedì, al di là insomma del dibattito già attivo oggi in rete su questa piattaforma che come dicevo all'inizio si intitola Diritto alla Rete? L'idea è che martedì ci si ritrovi alle 19 a Roma in Piazza Pasquino, e quindi in un luogo carico di significato per chiunque abbia a cuore l'informazione. Pasquino era la statua sulla quale si lasciavano le iscrizioni satiriche per dire al palazzo e alla politica quello che non si riusciva a dire altrimenti. Ci si ritrovi un po' tutti gli appartenenti a questa cosiddetta blogosfera, e ci si presenti di fronte a Pasquino simbolicamente con un bavaglio bianco sulla bocca ad indicare quello che potrebbe accadere all'indomani della entrata in vigore di questa legge, se l'emendamento che è già stato presentato sull'onda della protesta dall'Italia dei Valori non dovesse essere approvato. Bene, io ringrazio l'avvocato Guido Scorza per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, arrivederci. ...2024. Seguiteci ogni settimana nel nostro consueto spazio il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, e durante l'estate anche la domenica sera. Un buon ascolto a tutti i nostri ascoltatori, grazie a tutti per l'attenzione, e non dimenticate anche il servizio podcast, avete la possibilità di riascoltare il nostro programma quando preferite, quando volete, scaricando il file MP3 dal nostro sito internet o attraverso il servizio podcast. Tutte le informazioni sono online, oppure scriveteci una email 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, adesso abbiamo il piacere di ospitare a 2024 Stefano Pileri, che è responsabile delle tecnologie di Telecom Italia e da poche settimane anche presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Benvenuto a Radio 24. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Vorrei partire da uno dei trend che sta in parte trasformando l'industria dell'ICT o comunque dell'industria della tecnologia. Molti dei player di questo settore parlano oggi di risparmio energetico e in qualche modo anche voi avete da tempo cominciato a pensare all'energia. Può sembrare strano, perché la prima domanda che vorrei fare è: che cosa c'entra l'energia con un'azienda che invece si occupa di comunicazioni, di telecomunicazioni? E beh, l'approccio green, no? Che oggi molto responsabilmente le grandi aziende, ma non solo le grandi, si stanno ponendo. Cosa c'entra? Verso la velocità e verso la grande capacità di comunicazione, sia in ambito fisso e mobile, questo è dove stiamo andando. Di conseguenza, al crescere della velocità, cresce la necessità di avere degli apparati che consumano diciamo, tendenzialmente di più, perché i processori che utilizzano sono più ad alte prestazioni, ad alte performance, e perché quindi il consumo energetico tende a crescere, al crescere della velocità delle comunicazioni. Solo per fare un ricordo storico, quando c'erano i vecchi telefoni bigrigi, quelli che avevamo attaccati al muro, che cosa accadeva? Che soltanto quando io sganciavo la cornetta per fare una comunicazione, si metteva in moto un motore in centrale che dava energia. Che dava la capacità di linea, no? E la capacità di fare una telefonata. Via via che le reti sono diventate elettroniche, a quel tempo erano elettromeccaniche. Cosa è accaduto? Che l'alimentazione, quindi l'energia elettrica, è sempre attiva, è sempre data, no? È sempre erogata, sia che io voglia fare una telefonata, sia che non la voglio fare. Come dicono i tecnici, always on, always sempre on, accesa. Certo. E quindi un tempo, quando andavamo nelle centrali di notte, si sentiva, non c'era niente, e non c'era consumo per niente, c'era consumo soltanto di giorno, e c'era tanto più consumo quanto più telefonate accadevano. Invece evidentemente oggi no, è sempre costante il consumo e tendenzialmente sta crescendo. Allora questo è per rispondere a quello che dicevi, il motivo. Certo. Vi occupate anche di energia. Voi avete aderito ad un protocollo, un codice di condotta per ridurre il consumo energetico, non solo nelle vostre centrali, ma anche nel modem che io ho a casa. Eh sì, perché in tutte e due i punti c'è questa esigenza. Innanzitutto per dire a questo punto come con le nuove tecniche stiamo riandando al concetto del passato delle centrali, che davano energia soltanto quando c'era bisogno di darla, no? Quindi stiamo tornando lì. E non soltanto nelle telecomunicazioni, ma è un'esperienza comune a tutti noi. Chi di noi ha un personal computer ovviamente sa che dopo un certo numero di secondi o di minuti che io imposto, lo schermo si spegne, magari il computer va in stato di attesa, di stand-by. Sì, e cioè, ecco, allora la stessa identica cosa. Quindi stiamo impegnandoci sia a casa dei nostri clienti, dove ci sono i modem, no? Gli access gateway, insomma, le terminazioni delle reti a larga banda, sia in centrale, ad adottare quelle tecnologie, quei meccanismi che riducano sensibilmente il consumo. Per darti un'idea, il codice di condotta europeo per la riduzione dei consumi energetici dei dispositivi broadband, che quindi abbiamo sottoscritto da poco, e lo abbiamo fatto veramente con molta convinzione, tende nel giro di un triennio a ridurre intrinsecamente di addirittura un 50% il consumo necessario per lo sviluppo dei servizi broadband. Quindi diciamo una bella cosa. Sì, è una percentuale piuttosto elevata. Noi oggi stiamo ragionando, quando facciamo riferimento alla rete, stiamo facendo riferimento ad una rete che è in buona parte in fibra ottica, nelle grandi dorsali, diciamo così, in fibra ottica, ma quello che arriva nelle nostre case invece, in questo caso, nella gran parte dei casi, è ancora il vecchio doppino di rame, che, devo dire, si comporta ancora molto molto bene. Però volevo capire qual è lo sviluppo attuale e prossimo vicino di questa rete. Mi dicono che addirittura in Germania ci sia la DSL a 50 megabits al secondo. Cosa sta succedendo in Italia? Innanzitutto è vero, alcune aziende già in Europa e nel mondo stanno andando oltre alle prestazioni che noi chiamiamo oggi fino a 20 megabit al secondo che offre la DSL che conosciamo oggi. Innanzitutto oggi nel nostro paese abbiamo una diffusione discreta del broadband. Se posso accostare già quello che accade sulla rete fissa e quello che accade sull'accesso mobile, sull'accesso fisso diciamo, più del 90% delle linee hanno una connessione a larga banda e questa percentuale grazie anche alle crescenti iniziative anche pubbliche nelle zone più remote arriverà al 100%. Io mi auguro che questo avvenga già alla fine del 2011. Sulla parte mobile la larga banda invece oggi copre l'80% dei nostri terminali, no? Delle linee mobili. Cosa sta avvenendo? Beh, insomma, sta avvenendo che le tecnologie ADSL stanno ancora procedendo in termini di sviluppo e quindi si passa dalla ADSL a quello che si chiama VDSL, che consente velocità fino a 50 megabit al secondo. Perché consente queste velocità? Sia perché l'elettronica che viene utilizzato è più veloce, più compatta e quindi consente velocità maggiori, quindi le compressioni diciamo dei dati sono ancora maggiori, quindi consente velocità maggiori, sia perché la tecnologia VDSL utilizza doppini più corti e quindi utilizzando doppini più corti, quindi magari la si mette dentro i palazzi o la si mette in cabinet stradali, quindi dato che il doppino è più corto, a questo punto l'attenuazione è minore e quindi riusciamo ad andare a questa velocità. Sì, perché una cosa che si dice spesso è se tu abiti troppo lontano dalla centrale telecom, dalla centrale insomma dove ci sono le macchine che erogano il servizio ADSL, il segnale ADSL decade, quindi la capacità della DSL è meno performante. È vero. Quindi questo vuol dire che anche Telecom Italia farà presto dei lavori nei palazzi, nelle strade, nelle centrali che metteranno a disposizione dei clienti, anche delle famiglie, questa tecnologia? Sì, allora penso una bella notizia per il nostro paese, che ovviamente partendo dalla città di Milano, ma nella seconda parte verso la fine di quest'anno anche nella città di Roma, noi abbiamo avviato una sperimentazione di servizi con tecnologia VDSL, quindi in fibra ottica fino alla base dei palazzi. Abbiamo coperto in questo momento 150.000 unità immobiliari, quindi circa 12.000 building nella città di Milano, 12.000 palazzi, cominciamo questa sperimentazione. Però noi vorremmo utilizzare poi, via via che procediamo, già alla fine di quest'anno, ma poi il prossimo anno e ancora quello successivo, vorremmo andare su una rete completamente passiva, cioè una rete in fibra ottica fino alle case. L'acronimo è Fiber to the Home, FTTH, in modo tale che non distribuiamo elettronica ulteriore in rete di accesso, ma la parte elettronica è soltanto confinata nelle centrali Telecom e a casa dei nostri clienti, con un modem, ovviamente un modem di nuova generazione, sofisticato. Sì. A proposito, non ci dimentichiamo anche di quella parte che citavamo prima del paese che ancora non è coperta dalla DSL. In quelle aree voi continuate a fare dei lavori, cioè di upgrade della rete, e per capire quali sono diciamo i requisiti minimi per portare una DSL in un paese. Ricordiamo che l'Italia, per certi versi per fortuna, per altri purtroppo, è molto molto granulare sul territorio, quindi ci sono case, piccoli paesi distribuiti sul territorio che sono difficili da raggiungere. Ecco, in questi casi voi siete un'azienda e quindi dovete anche alla fine dell'anno fare un bilancio che con i conti che tornano. Ecco, qual è la richiesta minima di clienti in un piccolo borgo magari di provincia o di montagna? Richiesta minima nel senso... Di clienti, diciamo così, di linee attive. Potenziali, forse. Quanti debbono essere? Ma noi abbiamo coperto a larga banda paesi anche piccoli. Pensi che le centrali in Italia sono 10.400 le centrali e i comuni sono più di 8.000, quindi sì. Alla fine per i piccoli comuni c'è una centralina per comune, no? Quindi, per cui di queste centrali ne mancano all'appello oggi circa, di queste 10.400 ne mancano all'appello circa 2.000, va bene? E altre 2.000 di queste, per dare dei numeri proprio, altre 2.000 sono sì coperte con la larga banda, ma con una larga banda che consente fino a 640 kilobit al secondo, quindi non velocissima. Allora, è chiaro che la copertura a larga banda deve coprire queste ulteriori 4.000 centrali. Noi andremo avanti, copriremo ulteriori da qui a fine 2010, che è la fine del nostro piano di iniziativa Telecom di sviluppo a larga banda. Copriremo ulteriori 500 centrali e però la buona notizia è che il governo, quindi con il viceministro Romani che ha presentato proprio alcuni giorni fa al Parlamento il suo piano di eliminazione del digital divide, mette a disposizione delle risorse che, unite a altre risorse che metteranno gli operatori, consentirà, e io di questo ne sono veramente molto convinto, consentirà alla fine del 2011 di avere risolto il problema del digital divide in Italia, con dei collegamenti appunto che al 95% sono su rete fissa, quindi fino a circa 20 megabit al secondo, ovviamente come velocità di punta, e invece il restante 5% con il supporto degli operatori mobili copriremo con tecnologie wireless o mobili, sì, eccetera. Alternative. Questa è l'ultima parte di 2024, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete scriverci 2024, scritto in cifra, 2024, @radio24.it. È con noi Stefano Pileri, che è responsabile delle tecnologie di Telecom Italia, del gruppo Telecom Italia e, come dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, che proprio di questi temi si occupa, di banda larga, ad esempio, di fibra ottica. Allora, due domande. State investendo in fibra ottica? Si dice che ultimamente gli investimenti in generale nell'industria delle telecomunicazioni si siano fermati, non si scavi più per mettere nuova fibra. Allora, che cosa state facendo? Quali sono i vostri progetti per i prossimi anni? E poi c'è un grande dibattito nel paese. Certo, non possiamo riassumerlo in pochi minuti, ma il vostro parere, il parere di Stefano Pileri, è che la rete dovrà essere pubblica con un grande investimento, soprattutto pubblica, o la rete dovrà essere dei privati, quindi in primis anche di Telecom Italia? Dunque, noi stiamo procedendo come dicevo a Milano, dove la dotazione di fibra ottica per tutte le azioni che non solo Telecom Italia ha fatto nel corso degli anni, ma anche il Comune di Milano. Ricordiamo il grande piano di cablaggio che nei primi anni 2000 fu avviato e completato a Milano, quindi noi a Milano stiamo utilizzando quella di fibra, non ci sogniamo di farne un'altra, no? Quindi anche per rispetto della città, insomma, e dei cittadini. Effettivamente però sì, a queste domande rispondo con spero sistematicamente. Allora, innanzitutto stiamo procedendo allo sviluppo di una rete ottica di nuova generazione. La risposta è sì, partendo dalle città più importanti, quindi oltre Milano, Roma, e questa l'avviamo in quest'anno 2009, poi ulteriori due città nel 2010 e fino a 16 città nel 2011. Quindi a fine 2011 arriveremo a passare, quindi a portare la fibra ottica agli edifici che totalizzano in totale 3 milioni di linee. Le linee in Italia sono 22 milioni, quindi 3 milioni significa più o meno un 15%. Sì. Quindi abbiamo appena cominciato in questi tre anni. Cominciamo appena in questi tre anni. Alla seconda domanda, che dice la rete sarà pubblica o privata, cosa eccetera. No, noi pensiamo che la rete debba essere una rete sviluppata dagli operatori di telecomunicazioni. Evidentemente quello che Telecom Italia chiede, ma lo chiedono anche gli altri operatori, è che ci sia, dato che impegna degli investimenti importanti, ci siano delle regole che come dire, consentano di remunerare questi investimenti. Che cosa significa? Significa che debbo avere un rendimento tale da consentire il ritorno di questo investimento in un numero, diciamo, ragionevole di anni. Dato che questa è un'infrastruttura, non stiamo pensando a che essa debba tornare in tre anni, no? Non è certo, ragionevole. Certo. Però neanche, essendo un'azienda privata, possiamo certo permettere degli investimenti che tornano in vent'anni. E sono investimenti importanti perché pensi che nel nostro paese, per arrivare a una copertura, diciamo, del 60% circa, impegniamo oltre 5 miliardi di euro, tra i 5 e i 6 miliardi di euro, quindi chiaramente sono degli investimenti molto importanti. Voi siete un operatore, non so, adesso abbiamo parlato di rete fissa, di cavi, io dico spesso che la vera internet è quella che passa sul cavo, perché solo il cavo ci dà le garanzie, anche le performance che vogliamo e che sono necessarie per i servizi che girano su internet. Però voi avete anche un'anima wireless, quindi con i servizi di telefonia mobile. Viste le offerte e anche la concorrenza molto forte che oggi gli operatori di telefonia mobile si stanno facendo sui dati, non c'è il rischio di vedere una crescita troppo elevata, parlo di sistema paese, troppo elevata sui servizi mobili a scapito delle reti fisse, anche per un problema di costi? Oggi si trovano delle offerte straordinariamente economiche con una quasi flat mobile a prezzi che, insomma, sono inferiori ai 20 euro, invece per avere una DSL devo spendere qualche euro in più. Allora, questo rischio ci potrebbe essere, ovviamente io parlo di rischio, o altri operatori parlano di opportunità, specializzati certo soltanto sì nella rete mobile parleranno sicuramente di opportunità. Questo fenomeno potrebbe esserci, però consideriamo alcune cose che sono. Innanzitutto, un collegamento a larga banda fisso per una famiglia, per una casa, non è utilizzato soltanto da una persona. Un collegamento mobile, quindi una data card, una chiavetta o un telefono, generalmente sono personali, no? Quindi chiaramente io devo sempre confrontare i prezzi del broadband di rete fissa, e devo confrontare considerando un numero medio di utilizzatori che è sicuramente più di uno, almeno per quei 10 milioni di famiglie che oggi nel nostro paese vanno veramente costantemente, significativamente in internet, no? Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, io sono convinto che le due reti sono complementari, cioè la rete a larga banda fissa e la rete a larga banda mobile. Consideriamo oggi la rete mobile ha alcune limitazioni che sono proprio complementate dalla rete fissa. Che cosa intendo dire? Beh, la rete mobile lavora per coperture cellulari, quindi nelle grandi città, insomma, il raggio di copertura è un 500 metri, 600 metri, qualcosa del genere, ovviamente fuori molti, anche alcuni chilometri, e in queste celle posso avere anche, anzi è sempre più così, ho molti terminali, no? E allora, dato che la banda che viene erogata in ciascuna cella è condivisa tra tutti i terminali, ciascuno di questi non avrà una banda come oggi, diciamo, di picco di 7 megabit al secondo, tutti per lui. Li dovrà dividere con gli altri terminali, no? Quindi questo è il primo effetto, primo punto. E il secondo punto è che quando io vado da fuori, da quando sto per strada, oppure e entro dentro un ufficio o un'abitazione, la copertura, la penetrazione della rete broadband mobile, che è una penetrazione ad altissima frequenza, cioè a 2,1 GHz di frequenza, è meno efficace, no, della attuale copertura a 900 MHz, che è la rete mobile a banda stretta, la GSM. Di conseguenza, queste due limitazioni, una che debbo condividere la banda tra tutti i terminali che sono in copertura nella cella, due, che negli interni faccio più fatica. Oggi a me piace dire che le due reti sono complementari, no? Cioè io, quando sono a casa vado tranquillo, quando sono in ufficio con la rete fissa, con un movimento a larga banda, quando invece sto fuori metto una chiavetta e anche lì continuo a essere online anche fuori, no? Questo qui è il tema. C'è il rischio che gli operatori di telecomunicazioni come siete voi in futuro facciano sempre più i soli trasportatori di dati e si perdano delle opportunità e delle fette di mercato che stanno crescendo molto negli ultimi anni? C'è questo rischio, sì. E diciamo che altri operatori, fra virgolette, che sono invece i content provider oppure gli application provider, alcuni esempi, Apple come l'azienda che con tanto successo ha messo in rete il fenomeno iPhone e tutto il modello di business delle applicazioni, dei contenuti, della musica, eccetera, che si basa su iPhone, e dall'altra parte Google, che è l'azienda che sta più interpretando nel mondo la logica dei servizi on demand, no? Dei servizi online, ma non soltanto per tutti noi, per le famiglie o per le persone, ma anche per le aziende. Ebbene, spinti da questi fenomeni, il rischio c'è. Quindi gli operatori rischiano di essere confinati a fare i trasportatori. C'è il rischio che voi siate una parte fondamentale di tutto questo sistema, perché naturalmente Google non esisterebbe senza i cavi degli operatori di telecomunicazioni, nemmeno Apple, nemmeno tutti gli altri protagonisti, ma che siate compressi tra questi fenomeni. Assolutamente. E quindi avete poco margine, diciamo. Assolutamente sì, ed è bellissimo, perché cioè bellissimo il dibattito, sì, meno certo. Bella la situazione, perché gli operatori di telecomunicazioni secondo debbono solo investire, secondo questi attori della, diciamo, queste grandi aziende dei contenuti e delle applicazioni, devono solo investire per mettere più banda possibile nell'accesso, sì. Quindi ben venga il broadband mobile, che tra l'altro i cui dati stanno crescendo, i cui volumi stanno crescendo 200%, 250% l'anno, quindi, eppure mettere la fibra ottica in ambito fisso. E poi a questo punto dare ai nostri clienti degli abbonamenti sempre più, no, convenienti e flat, certo. Bene, rigorosamente flat secondo loro, e quindi alla fine noi investiamo e loro in maniera molto libera, eccetera, per carità, insomma, riempiono di bit la nostra rete, che tra l'altro la riempiono senza pagare l'utilizzo, senza loro pagare l'utilizzo della rete stessa. Questo modello non può essere, cioè, in parte, no? Lo pagano, un po' di banda la pagano, diciamo così. Sì, un po' di banda la pagano, però evidentemente non pagano per poi la qualità che viene poi fornita, crescendo sempre la velocità dell'accesso, perché oggi con la stessa modello di business con cui vengono date le capacità di navigazione su internet, stanno nascendo dei modelli di servizio dove la televisione ad alta qualità, anche YouTube sta andando su una parte, anche se oggi è in test, dove i video saranno ad alta qualità, quindi richiederanno anche vicino a 1 megabit o a 2 megabit al secondo di banda. A questo punto, con lo stesso modello, questi, diciamo, over the top, come si chiamano in gergo, gli operatori grandi del mondo internet, passano a contenuti, a un modello che ha contenuti di grande qualità e che richiedono grandi velocità, però alla fine sempre col fatto che chi remunera l'accesso è soltanto la parte degli operatori che chiedono. Certo. Quindi, allora, gli operatori debbono assolutamente, di telecomunicazioni, debbono fare un passo avanti. Verso i servizi. Verso i servizi, non soltanto trasportatori di bit. Le faccio un'ultima domanda, gliela faccio più che come capo delle tecnologie di Telecom, come presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. È vero che anche in Italia, forse in Italia più che in altri paesi, c'è una buona parte di popolazione che è poco interessata, disinteressata? Io so che in Gran Bretagna l'hanno stimata nel 13%, dei dati italiani non esistono, di persone che sono poco interessate ad internet, e quindi questo crea un problema perché c'è una fascia di popolazione che difficilmente entra ed entrerà in quella che sarà la piattaforma del futuro, sia in termini di dibattito, di informazione, di servizi che verranno erogati. Esiste anche qua questo problema? Esiste. Esiste perché le statistiche, le analisi di mercato che facciamo attestano il fatto che appunto sono 10 o 11 le milioni di famiglie che sono interessate ad internet. Ce n'è un'altra parte che è interessata ad internet, magari la usa più quando è in ufficio e non la usa per niente quando è a casa. E quindi arriviamo, per dire, a 12-13 milioni di famiglie, e le altre 8-9 milioni non sono interessate oggi ad internet. Questo per il nostro paese, per l'Italia, è un problema molto importante, enorme. Allora è chiaro che qui si deve chiamare a raccolta tutta l'energia che abbiamo nel nostro paese, l'energia delle aziende tecnologiche, delle aziende di telecomunicazioni, di informatica, l'energia del governo, e ovviamente un meccanismo, lo dico in senso buono, incentivante, che sì, consenta a magari chi è ancora indeciso di capire che quella è una cosa importante. Cosa può fare il governo? Portare a casa quello che ha detto che farà. Quindi devo dire che il ministro Brunetta, con un'energia molto, veramente molto significativa, sta portando avanti l'e-government 2012, no? Quindi con sanità, scuola, giustizia e molte altre parti dell'interazione del cittadino con la pubblica amministrazione messe online in rete. Questa è una straordinaria opportunità perché crea l'esigenza, no? Se io posso avere in rete una cosa che, se dovessi andare negli sportelli pubblici o da altre parti, ci metterei il doppio del tempo e magari il doppio dei costi, evidentemente sono interessato, no? Quindi primo punto. Ma un importante e straordinario compito debbono avere le aziende. Le grandi aziende, le medie aziende, per aumentare e semplificare l'offerta. Le piccole aziende per analizzare la possibilità di andare online con i propri processi e capire che questa strada le renderà molto più competitive in un mondo che è sempre più online, sempre più globale. Bene, io ringrazio Stefano Pileri per essere stato con noi. Il lavoro non mancherà, il dibattito è molto complesso, molto ampio. Buon lavoro, grazie, a presto. Grazie a voi, arrivederci. E così concludiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie a Luigi Borghi in redazione. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Non dimenticate che 2024 è disponibile anche online, come sempre a partire dal lunedì pomeriggio. Grazie al servizio podcast potete scaricare automaticamente settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. È tutto per questa settimana. Buon ascolto con i programmi di Radio 24, appuntamento tra 7 giorni. You are disconnected.